Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente la vicenda Mediaset Vivendi è ancora caldissima. Mediaset guadagna, non come ieri, ci mancherebbe, oltre il 30%, ma il 4% è il titolo più in maggior crescita tra quelle maggiore capitalizzazione. Forti gli scambi a 3,73 euro nel giorno in cui si sta ragionando. Intanto c'è questo vertice ad Arcore, Berlusconi ha annullato tutti gli appuntamenti, come vi ricordavano i nostri GR24, e si cerca di capire la linea da tenere. La battaglia è in corso, è inutile, come già ricordavamo ieri, fare giri di parole. L'obiettivo di Bolloré è arrivare al 20% di media, state diventare il secondo azionista di peso dopo Fininvest, che è salita nel frattempo al 38%. E mezzo per cento, con un esborso quantificabile intorno ai 140 milioni, 38,2%. Dicevo, il punto a questo punto è non tanto prendere atto della battaglia in corso, ma capire come potrebbe finire. Noi già ieri dicemmo che va vista in un quadro più complessivo di uno scenario in cui dagli Stati Uniti con AT&T e l'operazione su Time Warner si va verso una convergenza tra chi ha la rete e chi ha i contenuti. È ovvio che di questa partita diventa soggetto attivo anche Telecom Italia, di cui Bolloré ha il 24%, e poi apriremo il ragionamento anche agli altri soggetti, in questo momento più spettatori. Mi riferisco a Mediobanca e mi riferisco alle generali, nel senso che, come chiariremo, c'è una partecipazione e un ruolo non solo diretto di Bolloré e anche della Fininvest in Mediobanca, ma poi c'è la partecipazione di Mediobanca in generali, molto forte. Tra l'altro, da questo punto di vista c'è potuto il ruolo di AXA. Mediobanca al 13% delle generali, ad azionisti francesi riconducibile circa al 7% delle generali. Bolloré, ripeto, ha una piccola partecipazione diretta anche in Mediobanca, in generali, e poi AXA, che è il secondo azionista del Monte dei Paschi di Siena, potrebbe essere, da alcuni viene visto come l'ipotetico soggetto per una scalata dentro le generali. Mi sembra questo uno scenario molto più, diciamo, di là da venire, ma è ovvio che la partita è molto più ampia del semplice scontro per il controllo di Mediaset, che già è una partita notevole e di gran peso. Partiremo però con il rapporto del Centro Studi Confindustria sugli scenari economici diffuso oggi, e andremo ad analizzare invece poi quello che sta capitando sul fronte della finanza italiana. Molti parlano della calata dei francesi, in realtà sono già calati per alcuni versi, ma mi sembra che in questo momento sia più da tenere in prospettiva il piano industriale, lo scenario industriale, scusatemi, che non solo la nazionalità di Bolloré e delle partecipazioni francesi, anche perché alcuni mettono insieme tante cose. È ovvio che tutti sappiamo che ci sono dei leader, penso a Unicredit con Mustier, ma non solo, generali con Donet, dei leader di gruppi di questo peso francesi. Poi il fatto che siano francesi non vuol dire che in automatico parta un asse e un'accordata, ma insomma la partita è molto aperta, molto complessa, anche da raccontare in radio, mancando schemi e grafici. Per il resto la borsa vede il Banco Popolare più 2%, Pop Milano più 1,90, Saipem più 1,80, Mediobanca più 1,70, Exor più 1,40. Come notate, tranquilli gli altri titoli che citavo. Addirittura, per quello che riguarda il titolo, chi è in negativo oggi, notiamo Intesa San Paolo meno 2,40%, Biper Banca, resto sui bancari, meno 1,5%, Monte dei Paschi meno 1,5%, il CDA, non ci sono notizie dal Consiglio di Amministrazione in questo momento, non è detto che arrivi un comunicato prima di domani, da quello che abbiamo capito come comunicato del Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp. Generali, giustamente mi chiedete, generali perde lo 0,50% oggi. Dicevo 349-238-6666 per sms e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, questa sera c'è molta attesa, le borse sono, dicevo, Milano meno 1%, Parigi meno 0,80%, Francoforte meno 0,35%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,16%, c'è molta attesa per la Federal Reserve. Quale segnale manderà la Fed dopo, diciamo, la nomina di Trump, ma soprattutto le prospettive sul 2017, quanto al rialzo dei tassi di interesse. Il dollaro non è in rafforzamento oggi sull'euro, l'euro a quota 1,06%. Tra l'altro, da questo punto di vista si cerca di capire anche quale indicazione Janet Yellen, il numero uno della Federal Reserve, darà, ripeto, interessano soprattutto i rialzi ipotizzati dei tassi di interesse americani nel 2017. Nel frattempo, oggi Trump ha scelto anche il ministro dell'energia e l'ex governatore del Texas Rick Perry, mentre un ex marine dei Navy SEAL, Ryan Zink, è stato noto soprattutto per alcune battaglie contro gli ambientalisti, è un appassionato di caccia e di pesca, è originario del Montana, è il quarto ex militare a entrare nell'amministrazione Trump dopo Michael Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale, James Mattis, nuovo capo del Pentagono, e John Kelly, nuovo ministro della sicurezza interna, è stato nominato segretario agli interni. Tra l'altro, Stephen Miller, uno dei responsabili della campagna elettorale di Trump, è stato nominato consigliere politico alla Casa Bianca, e appunto Tillerson ha già fatto le valigie, nel senso che da ExxonMobil entrerà a far parte come segretario di Stato, quindi ministro degli esteri americano, e a questo punto il nuovo numero uno dovrebbe essere Darren Woods, il nuovo numero uno di ExxonMobil. Nel frattempo, visto che il nuovo ministro degli esteri americano è molto amico di Putin e già si ragiona su un alleggerimento, se non sospensione, cancellazione delle sanzioni contro la Russia, oggi fonti del governo tedesco dicono che il vertice di domani a Bruxelles dell'Unione Europea dovrebbe varare probabilmente un prolungamento invece delle sanzioni contro la Russia per la crisi ucraina di almeno 6 mesi. Veniamo all'Italia, dove è arrivata oggi la conferma da parte del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker in Commissione Plenaria del Parlamento Europeo che le spese che l'Italia sta sostenendo per i flussi migratori saranno fuori dal patto di stabilità, non possiamo lasciare sola l'Italia, così Juncker. Wir dürfen Italien mit den Folgen der Flüchtlingskrise nicht allein lassen. Ci sono problemi molto seri nel Mediterraneo, così come in Italia, e faremmo un errore se non li affrontassimo. È importante non lasciare sola l'Italia, lo ribadisco, perché è un punto di fondamentale importanza. L'Italia sta mettendo a disposizione fondi considerevoli per mitigare gli effetti più negativi della crisi migratoria e non dovrebbero rientrare nei calcoli che riguardano l'applicazione del patto di stabilità e crescita. L'Italia sta facendo moltissimo per i rifugiati e questo non deve portare a conseguenze negative in termini di bilancio per l'Italia. E a proposito di spese straordinarie, la Camera oggi ha approvato definitivamente con 441 voti favorevoli, nessun voto contrario, quindi il decreto legge che contiene misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di quest'estate nel centro Italia, aveva già ricevuto il via libera dal Senato. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Salvatore Padula. Proprio mentre il Senato si preparava a votare la fiducia al nuovo governo, poi arrivata con 169 voti a favore, l'altro ramo del Parlamento stava approvando il decreto sul terremoto che ora è diventato legge. Il testo è stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche, il che in questa fase di grandi scontri tra i partiti rappresenta in qualche modo la presa di coscienza sulla necessità di dare risposte urgenti alle popolazioni colpite dal sisma. Peraltro domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Arquata del Tronto per la sua quarta visita nei comuni devastati dal terremoto. Comunque il decreto, dicevamo, con il provvedimento vengono stanziati 500 milioni di euro per il sostegno alle zone colpite dalle scosse. Si conferma che l'attuazione degli interventi sarà affidata al commissario straordinario Vasco Errani. Il ruolo del commissario peraltro sarà molto molto rilevante, perché sarà proprio lui a provvedere alla determinazione dei contributi che saranno assegnati a chi ha subito danni, contributi che dovrebbero arrivare fino al 100% delle spese sostenute per chi ha avuto sia l'abitazione sia l'attività produttiva danneggiata. Molto importante è anche quella parte che prevede misure di sostegno sia per le attività economiche sia per chi ha perso momentaneamente il lavoro a causa del sisma. Tra le azioni concrete ci sono la cosiddetta busta paga pesante per i dipendenti, quali percepiranno di fatto lo stipendio lordo, sia la sospensione del pagamento dei tributi, delle utenze e dei premi assicurativi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, restiamo in Italia perché oggi, come sapete dai nostri GR24, il governo Gentiloni incassa la fiducia, 169 sì, 99 contrari, 0 astenuti, 5 stelle sono rimasti in aula e hanno voto contro. Vedo che alcuni mi chiedono di Mediaset, vi arriveremo dopo i mercati. Invece vorrei restare sui dati macroeconomici, perché l'Istat ha confermato a novembre un'inflazione più 0,1%, cala sul mese dello 0,1% però l'indice dei prezzi al consumo, per quello riguarda l'intera collettività. Il carrello della spesa, cioè l'indice dei beni a maggior frequenza di consumo, è in calo dello 0,1% sull'anno, in aumento dello 0,4% rispetto invece al mese, quindi si conferma anno su anno una deflazione. L'Istat aggiorna il termometro sul benessere eco e sostenibile, evidenziando segnali di miglioramento nel periodo 2015-2016 rispetto al 2013, lieve diminuzione dei NEET, cioè di chi non lavora né studia, da 26,2 al 25,7%. E ancora le disuguaglianze però di reddito restano ai livelli massimi degli ultimi 10 anni, sempre l'Istat questo. Confcommercio segnala invece spese per i regali di Natale in calo del 30% rispetto al 2009, ma di solo l'1% rispetto al 2015. In media gli italiani spenderanno 164 euro per le spese di Natale. Questo nel giorno in cui il Centro Studi Confindustria ha presentato il volume Scenari Economici durante il seminario, e delle priorità del governo Gentiloni ha parlato anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia. Intanto saluto e ringrazio il direttore del Centro Studi di Confindustria Luca Paolazzi. Buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, ascoltiamo intanto Vincenzo Boccia, che dice al governo benissimo la legge elettorale, ma si parli anche e soprattutto di economia. Io penso che noi dobbiamo, come dire, chiedere e partecipare con nostre proposte dal punto di vista economico, chiaramente, alla politica, di recuperare il primato della politica. Perché il primato della politica darebbe certezza sul futuro, seppure in un'area, diciamo, in cui abbiamo un po' più di mezzi rispetto al dopoguerra, ma abbiamo, come dire, potenzialità incredibili. E quindi sacrifici, speranza, futuro, visione e non constatazione, trasformare la rabbia in passione e passare dalla pancia alla testa è una delle sfide che il Paese deve cogliere. Dobbiamo avere una visione lunga di medio termine per la competitività e crescita del Paese, per eliminare diseguaglianze e povertà. Per noi la crescita non è un fine ma una precondizione, riducendo debito e deficit, è una visione larga, cioè cosa e come fare, non sottovalutando la questione temporale, cioè in quanto tempo lo facciamo, ed evitare di andare avanti per traumi. Quindi politiche di bilancio che abbiano una visione di medio termine non è facile con un governo che dice che andrà avanti fino a quando avrà la fiducia. È facile forse rivendicando o richiamando i partiti, come dire, a non parlare solo di legge elettorale, ma a capire se ci sono dei punti, di nodi di sviluppo nell'interesse del paese al di là delle divisioni tra i partiti. Forse questo, come dire, bagno, diciamo, sull'economia reale e sulla idea di futuro del paese è uno sforzo che dovremmo fare. Allora, andiamo sulle previsioni che avete diffuso oggi, Luca. PIL rivisto a rialzo nel 2016 più 0,9, più 0,8 nel 2017, è sempre una crescita molto modesta, la stimavate lo 0,5 per l'anno prossimo e lo 0,7 quest'anno. Avete rivisto a rialzo anche leggermente il PIL nel terzo trimestre di quest'anno, da 0,15 a più 0,25, nel quarto più 0,15 invece che una variazione nulla, e tra l'altro i prezzi meno 0,2% quest'anno, più 0,7% nel 2017. Ancora, vado per estrema sintesi, le stime di disoccupazione quest'anno scende leggermente all'11,4% e all'11% nel 2017. Nel 2018 il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere ulteriormente al 10,5%. Ultima cifra che elenco, quella del deficit PIL, al 2,4% quest'anno, al 2,5% l'anno prossimo. Vengo subito alla prima domanda, prima che tanto la stanno già ponendo gli ascoltatori. L'effetto referendum, Luca, in cui molti si erano esercitati, anche voi, nel cercare di capire che cosa sarebbe potuto succedere, mi sembra non solo sulla borsa, perché la borsa oggi in questi giorni si muove su tutt'altre variabili, ma che sullo scenario complessivo dell'economia reale non si stia verificando. Siamo molto felici di ciò. Anche noi, certo. Penso, diciamo, che forse mettere sull'avviso il paese di un grave rischio abbia fatto riflettere istituzioni e Banca Centrale Europea a evitare che questo rischio si materializzasse. Come insegnò un grande maestro delle previsioni, mio maestro delle previsioni, le migliori sono quelle che non si realizzano perché cambiano i comportamenti. Ecco, su questo, visto che avete rivisto il leggero rialzo, ma tutte le stime, che cosa sta contribuendo a questo miglioramento? Lo scenario esterno, cioè noi abbiamo visto anche, per esempio, nel caso di Trump, avevamo letto di previsioni molto negative, in realtà la borsa sta continuando a crescere al di là di alcuni titoli, e vedremo cosa dirà questa sera la Federal Reserve, ci mancherebbe, che orientamento darà sui tassi di interesse, sui rialzi futuri, ma per far capire a tutti cos'è che sta contribuendo, seppur in maniera moderata, non voglio peccare di entusiasmo, ma a migliorare le previsioni sul 2016 e soprattutto sul 2017. Aggiungo che oggi siamo usciti anche con le previsioni del 2018, e con un 1% di crescita del PIL, che però non incorpora l'aumento di imposte indirette per circa 19,5 miliardi di euro che è inserito nella legge di bilancio come clausola di salvaguardia per raggiungere quegli obiettivi di finanza pubblica che ci siamo impegnati a raggiungere all'interno dell'Unione Europea. Detto questo, lo scenario economico internazionale è cambiato nel raggio di pochissime settimane, diciamo 4-5, sul fronte della maggior crescita internazionale, ci sono segnali di maggior slancio sia nei paesi emergenti sia negli Stati Uniti sia nell'Eurozona. È cambiato nell'ambito del ritorno in auge delle politiche di bilancio come leva espansiva per sostenere la domanda interna, e questo nelle promesse elettorali di Trump, ma anche in quella proposta coraggiosa, seppur tardiva e ancora non concretizzata da parte della Commissione Europea, di utilizzare uno spazio di bilancio in alcuni paesi per aumentare appunto la crescita nell'Eurozona. È cambiato nella maggiore fiducia che si nota, come dicevi tu, nelle borse, che sono le prime a reagire a questo cambio di paradigma da politica monetaria a politica di bilancio in sostegno dell'economia. È cambiato nel fatto che le materie prime stanno rincarando, soprattutto il petrolio per l'accordo dell'OPEC. Tutti questi cambiamenti si sono concretizzati molto rapidamente, ma sono maturati nel corso del tempo. è cambiato nelle tensioni dei tassi di interesse, lo vediamo nei mercati a lungo termine, ma anche, come annunciavi tu, un aumento dei tassi atteso per oggi da parte della Fed, a cui seguiranno altri aumenti da parte della Fed, seppure graduali e misurati sull'andamento dell'economia. Le banche centrali nel loro complesso tenderanno a ridurre le loro politiche non convenzionali anche nell'eurozona. È cambiato questo scenario col fatto che il primo cittadino del mondo, chiamiamolo così, eletto, ha legittimato il protezionismo, cosa che finora era un aspetto totalmente tabù e forse è meglio che rimanesse tale, anche se tante nazioni del G20 hanno adottato misure protezionistiche negli ultimi 7 anni e continueranno a farlo. Lui ha detto: usiamo misure protezionistiche per cambiare il corso della globalizzazione, e questo, diciamo così, darà un impulso ulteriormente diverso all'andamento degli scambi e contribuirà al rallentamento degli scambi stessi e a perpetuare una crescita che è lenta. Tutto detto ciò, nello scenario dell'economia italiana questo ancora non si vede. Lì volevo arrivare. La ragione per cui abbiamo rialzato le previsioni ha a che fare con quello che è già successo, era già successo prima, e ha a che fare con un primo semestre dell'anno che è stato rivisto a rialzo da parte dell'Istat, con un secondo semestre dell'anno che risulta migliore di quello che potevamo leggere 3 mesi fa, con le misure introdotte nella legge di bilancio con un deficit pubblico più elevato l'anno prossimo, mentre noi pensavamo che avrebbero utilizzato tagli di spesa per compensare il mancato aumento delle imposte indirette, e loro invece per 0,7 punti percentuali di PIL non hanno fatto, e hanno varato invece misure di incentivo agli investimenti con il rinnovo del superammortamento e con l'iperammortamento per i beni collegati Industria 4.0, che avranno questi incentivi effetto sul deficit dilazionati nel tempo, ma che hanno spinto a rialzare dal 2% al 2,8% la crescita degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto nel 2017 rispetto a quello che dicevamo nel 2017 rispetto a quello che diciamo a settembre scorso. Tutto questo contribuisce a alzare la previsione del PIL dallo 0,5 allo 0,9, a cui dobbiamo togliere invece uno 0,15 di aumento del prezzo del petrolio. Non incide tutto quello che abbiamo detto prima di cambiamento scenario, perché già noi scontavamo un'accelerazione del commercio mondiale dallo 0,9 al 2,4%, 0,9 quest'anno, 2,4% l'anno prossimo e poi 2,7% nel 2018, e quindi già ci aspettavamo una ripresa dell'economia mondiale che ci avrebbe aiutato a esportare di più. Non però a risolvere i nostri problemi, come ha detto il Presidente Boccia, a conclusione del nostro seminario oggi, li avremo con noi anche dopo le vacanze di Natale. Su questo volevo concludere, perché adesso ben venga, ci mancherebbe, non abbiamo mai fatto come il marito cornuto che, diciamo, per vendicarsi si taglia la cosa, diciamo, l'organo riproduttivo, mettiamola così, per cui ben venga una revisione al rialzo, ci mancherebbe, tutti dovremmo essere contenti, però in prospettiva va bene lo 0,9 quest'anno, lo 0,8 l'anno prossimo, anche nel 2018 voi stimate un 1%. Luca Palazzi, questo vuol dire che dobbiamo rassegnarci, per carità, a una crescita modesta, perché l'1% una volta si definiva una crescita non sufficiente, e che cosa potrebbe intervenire sul fronte interno italiano per accelerarla, perché non possiamo sempre stare appesi alle dinamiche esterne o ai fattori esogeni. Rassegnazione è una parola da bandire, e anche, diciamo così, rimanere fermi e in un certo modo agire in senso difensivo. No, piuttosto bisogna reagire, il che significa tutti quanti fare la loro parte come sistema paese. È ovvio che con una crescita potenziale che è intorno allo 0,5%, e potremmo anche persino essere tacciati di ottimismo, indicare 0,5%, vuol dire velocità normale dell'economia italiana. Per salire di velocità devi fare una serie di cose che riguardano la gestione della cosa pubblica, fondamentalmente pubblica amministrazione, giustizia, istruzione, infrastrutture, eccetera. Possiamo elencarle, forse non vale la pena, è un elenco che gli ascoltatori credo conoscano molto bene, e però per farlo occorre un governo che abbia un orizzonte di tempo non corto o perlomeno agisca come se avesse un orizzonte di tempo lungo. E da questo punto di vista, appunto, l'appello del presidente di Confindustria oggi a cercare di trovare tra i partiti quell'accordo in quelle nodi di sviluppo per sciogliere i quali occorre questo consenso e cercare di poi raccogliere i frutti quando questi verranno, perché è evidente che le misure di tipo strutturale non hanno effetti immediati. Possiamo cercare di sostenere la crescita con qualche misura congiunturale, ma poi serve semplicemente a guadagnare il tempo, a fare quel ponte fra l'oggi, che ancora le misure non hanno frutti, e un domani. E quindi torniamo a parlare di lentezza della giustizia in primo luogo civile, burocrazia e riforma DIA, che adesso appunto è appesa al rinvio del Consiglio di Stato alla Consulta, e anche il ritorno, o meglio, i tempi di pagamento alle imprese nei crediti che vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Ne cito tre perché sono ormai un mantra e continuiamo a ripetere. Vorremmo che appunto il governo, e questa preoccupazione la condivido, non si occupasse solo della legge elettorale, che capiamo tutti, non è che siamo, lo dico a chi scrive, degli ignoranti in politica, che è fondamentale per trovare un accordo anche con l'opposizione per andare incontro alla richiesta del Presidente della Repubblica per portare il Paese a elezioni, per carità. Però nel frattempo non possiamo star fermi, già diciamo, il Paese si era fermato parzialmente per il referendum, non possiamo star fermi anche immaginando che solo la legge elettorale debba essere nell'orizzonte, nell'obiettivo di questo governo Gentiloni. Grazie intanto a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. E a proposito di scadenze elettorali, oggi siamo venuti a sapere, perché è stata fissata la data, si esprimerà la consulta sull'ammissibilità delle richieste relative a tre referendum abrogativi, tutti concernenti il Jobs Act, cioè quindi in materia di lavoro, comprese le misure presenti nel Jobs Act. Dicevo, il referendum proposto dalla CGIL, che ha raccolto oltre 3 milioni di firme, l'ammissibilità verrà decisa l'11 di gennaio, e quindi in aggiunta ad altre cause già fissate, per sapere se, come richiesta di referendum, la consulta li ritiene ammissibili. Il ministro del Lavoro Poletti ha detto che se si vota prima del referendum il problema non si pone, sulla data dell'esame della consulta è tutto come previsto. Invece il segretario CGIL Susanna Camusso ha detto vale il merito e non la data, e ha poi detto mi pare da questo punto di vista che Poletti sia dotato della sfera di cristallo, come battuta per dire che se si vota prima del referendum è una ipotesi di Poletti. Devo dire che su questo tema è intervenuto anche il presidente di Confindustria Boccia, proprio sul referendum come ulteriore elemento di incertezza che rischia di bloccare qualunque scelta delle imprese in tema di assunzione. Se noi, come dire, non prendiamo posizioni su alcune cose, di giorno in giorno l'ansietà nel sistema paese aumenta, i consumatori non consumano, gli investitori attendono, e questo, diciamo, comporta un problema. Faccio solo un passaggio, una parentesi: abbiamo fatto il Jobs Act, adesso c'è il referendum, se arriva il referendum cosa accade? Io attendo, non assumo. Ecco, questi sono i capolavori italiani dell'ansietà e della incertezza totale, e i motivi per cui gli imprenditori italiani sono i più bravi al mondo, perché vivono in condizioni perenni di incertezza. Cioè, però nemmeno, come dire, possiamo, come dire, continuare a vivere così in un mondo globalizzato che ha opportunità e rischi. Allora, dunque, ora si prostra Gentiloni, mi scrive un ascoltatore, ma a me non sembra proprio. Mi hanno detto che speriamo che il governo Gentiloni, ieri l'abbiamo anche criticato in parte, penso, governo molto fotocopia, ma insomma che non si occupi solo della legge elettorale. Non abbiamo detto di non occuparsi della legge elettorale, ma che si ricordi che ci sono altre priorità di carattere economico che questo paese ha, se no continuiamo a essere imballati e ingessati prima al referendum. E la nostra posizione sull'aver bloccato il paese in attesa del referendum è stata netta, nettissima, riascoltatevi le puntate precedenti al voto. E adesso speriamo che tutto non si blocchi in attesa della legge elettorale e delle... Cioè, questo è un paese che... Il mondo va avanti, lo vorrei dire in maniera molto tranquilla anche al nostro governo. Detto questo, andiamo sul metodo, la pubblicità. Il Centro Studi Confindustria era quello che prevedeva il disastro con il no. È la prima domanda che abbiamo posto a Paolazzi, ha risposto. Andiamo sul meteo e la pubblicità, 349-238-6666, e poi lo stesso numero anche per WhatsApp, mercati, e iniziamo un lungo approfondimento invece su Mediaset, Vivendi, con tutto ciò che comporta, Telecom da un lato, ma allargando il cerchio anche Mediobanca e Generali. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... JP Morgan Asset Management. Focus Economia. minuti, allora andiamo sulla borsa e poi iniziamo la lunga pagina Mediaset, Vivendi, Telecom e poi, ripeto, in versione di scenario anche Mediobanca e Generali, con la posizione politica, perché non sfugge nessuno alla dichiarazione del Presidente del Consiglio Gentiloni: l'Italia non è terra di scorribande. Faccio notare però che sia Mediaset che anche Telecom, volendo, sono gruppi assolutamente privati e diventerebbe un po', poi ne parleremo, singolare riscoprire l'italianità di un gruppo completamente privato, perché allora se dovessimo ragionare in termini strategici, perché c'erano anche gli interessi del paese, i gruppi energetici, e lì c'è l'Eni e l'Enel, ma allora Telecom poteva essere difesa come italianità e avrebbe avuto anche più senso difendere l'italianità di chi gestisce i dati sulla rete, dati anche sensibili, intercettazioni e quant'altro, più che difendere media, se te lo dico con massimo rispetto, ma insomma è un gruppo privato come, un gruppo, come sono privati tanti altri gruppi. L'elemento strategico diventa un pochino più difficile da far valere, se non l'hai fatto valere a suo tempo con Telecom, la dico tutta. Comunque, Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera alla borsa. Lasciamo stare, Milanora, buonasera. Sì, buonasera. Lasciamo stare tutta la galassia, diciamo, attorno alla vicenda, quindi Mediaset alla fine più 1% ritraccia molto, Banco Popolare più 1,80 e Popolare Milano più 1,80 anch'essa. Invece Unicredit perde il 6,40%, cosa sono realizzi? Sì, ieri ricordiamo che il titolo aveva guadagnato 15%. Il 16%, sì. Sulla scorta del fatto che i target per il futuro, soprattutto al 2018, con 4,7 miliardi di utile previsto, sono superiori alle attese degli analisti e soprattutto anche la redditività dell'azienda, che sarà determinata anche dal taglio dei costi e dal taglio al personale. D'altra parte, oggi a mente fredda gli investitori sono tornati a confrontarsi con il fatto che a breve la banca dovrà comunque lanciare un aumento di capitale da ben 13 miliardi di euro. Ancora per quello che riguarda i titoli, Monte dei Paschi, citiamolo perché c'è oggi il consiglio di amministrazione ufficiale, no, della Banca Centrale Europea, la proroga dell'aumento per l'aumento di capitale da 5 miliardi. C'è un'attesa molto forte sulla Consob, che dovrebbe chiarire se è ammissibile o no la richiesta del Monte dei Paschi di riaprire la conversione dei bond subordinati anche a un'altra platea. Da quello che ho capito però, Eleonora, c'è la possibilità molto forte che una comunicazione Monte dei Paschi arrivi solo domani? Esatto, infatti oggi è in corso, si è riunito nel pomeriggio il consiglio di amministrazione della banca, che darà indicazioni sul processo di ripatrimonializzazione dell'istituto, soprattutto alla luce del no ufficiale da parte della BCE. A questo punto una soluzione per rafforzare la banca, ricordiamo, di 5 miliardi di euro dovrà essere comunque trovata entro la fine dell'anno. Vedremo se sarà possibile una soluzione di mercato. Il CDA sta attendendo anche le indicazioni da parte della Consob, se può riaprire l'offerta agli obbligazionisti privati. Ricordiamo che i piccoli risparmiatori detengono obbligazioni subordinate per circa 2 miliardi di euro. Se ovviamente venissero convertite, questo alleggerirebbe poi l'entità dell'aumento di capitale, e in ogni caso poi rimane sullo sfondo sempre anche l'eventualità di un intervento da parte dello Stato, e del resto anche le indicazioni vanno in questo senso. Comunque la borsa ovviamente reagisce in modo nervoso, perché si naviga a vista e non si conosce bene come verrà risolta la crisi dell'istituto senese. Ancora per quello che riguarda gli altri titoli di Telecom parleremo tra un attimo. Comunque, ripeto, oggi poco mossi, perfino Mediaset che guadagnava quasi il 5% ha chiuso a più 1, Telecom Italia meno 0,26%, Generali, qui ripeto è più lo scenario che la notizia in sé, notizia concreta, meno 1%. tra i titoli che hanno perso, oltre a Unicredit, anche CNH Industrial meno 2,80%, Intesa San Paolo meno 2,60%. Ancora Eni leggermente negativa lungo la seduta, oggi deboli gli energetici, c'è un ritracciamento del prezzo del petrolio meno 0,33%. Chiudiamo su invece il Banco Popolare e la BPM, perché la fusione avverrà il 1 gennaio. Tra l'altro c'è stata la notizia di un ingresso anche di Norges Bank, no? Che è al 3% del Banco Popolare. Diciamo quest'oggi le banche sono tutte più o meno deboli, fatta eccezione di Banco Popolare e della BPM, che si sono messe in evidenza sin da questa mattina, più 1,8 la BPM, più 2,19% il Banco Popolare, perché parte diciamo il conto alla rovescia per la fusione effettiva che dovrebbe partire, sempre se arriveranno tutte le autorizzazioni del caso, esattamente a inizio gennaio 2017. Intanto Norges Bank, cioè la banca centrale della Norvegia, ha acquisito una partecipazione superiore al 3% in Banco Popolare, a dimostrazione che crede ovviamente nell'operazione, anche nel nuovo gruppo bancario che si va formando. Allora, migliori e peggiori in assoluto: Italia Independent più 15%, Primi sui motori più 13%, Energica più 10%, Poligrafici Editoriale più 9%, Fronte Opposto Energy Lab meno 7%, Unicredit meno 6,5%, Amplifon meno 6%, Digital Brothers meno 5%. Grazie Leonora Micheli. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Allora, iniziamo 17:51 minuti, la lunga pagina, prima di carattere finanziario, poi allargando anche lo scenario politico. Non sfugge a nessuno che insomma Berlusconi è anche il leader dell'opposizione e ha il suo gruppo di Mediaset sotto scalata, non ci sono altri termini, da parte di Vincent Bolloré, prima amico, ora nemico, addirittura scalatore. E iniziamo da Antonello Olivieri per la parte finanziaria del Sole 24 Ore. Ieri appunto, sborsando circa 140 milioni di euro, Mediaset ha portato la sua Fininvest ha portato la sua partecipazione in Mediaset al 38,2%, Bolloré è al 13%, non so, oggi vedremo, poi ci saranno altre comunicazioni. Mediaset, o meglio Fininvest, Berlusconi ad Arcore, ha annullato tutti gli appuntamenti, ha riunito con la famiglia, si sentono sotto attacco. Le strategie in atto, Antonella? Sicuramente è sotto attacco, nel senso che sono stati attaccati, cioè Mediaset è stata attaccata, diciamo, abbastanza sangue freddo, nel bel mezzo di un contenzioso per un contratto che era stato firmato in via amichevole ed è stato disdettato dai francesi, che era quello sul premium per il passaggio del 100% di premium. L'impressione è che Bolloré non stia giocando in questa fase a lanciare un'OPA, bensì a costituire una posizione di forza dentro Mediaset per poi risedersi a trattare con un peso in Mediaset, non da esterno. E dall'altra parte è evidente che come minimo Fininvest ha intenzione di rafforzare la propria posizione, perché se anche dovesse decidere di sedersi a trattare, tratta da una posizione di maggior forza. Ciò detto, non si può escludere che la situazione degeneri e che quindi si finisca di sfociare in uno scenario di OPA contro OPA, però non è in questa fase. Cioè, quello che tu ci stai dicendo è, in questo momento Bolloré sta fortificando così le sue posizioni, vuole arrivare al 20%, questo lo dichiarò già in tempi non sospetti, e la mossa di ieri, prima al 3%, poi abbiamo scoperto che è arrivato al 12,3%, va in questa direzione, per poi sedersi e dire bene, adesso trattiamo. Ma trattiamo, e qui poi questo ci porta al prossimo tema dopo il GR24, trattiamo su cosa? Perché Bolloré ha il 24% di Telecom Italia, restando solo sull'Italia in questo momento. Esattamente, allora non dobbiamo dimenticare che Bolloré è in atto una trattativa anche con Orange che riguarda Canal Plus. In realtà si tratta di una quota di minoranza, però potrebbe esserci uno scambio. La nebulosa, perché diciamo Bolloré è un jazzista della finanza, è un improvvisatore. Lo spartito forse non ce l'ha ancora ben chiaro nemmeno lui, però ha ben chiaro che ha tante carte da giocare. Orange è sicuramente interessata anche a Telecom, ma potrebbe venirne fuori, diciamo, un gruppo paneuropeo, un reticolo che coinvolga Orange, Telecom, Mediaset e Canal Plus. Ecco, un'ultima domanda, perché può essere anche il tema della seconda parte del programma. Qui però molti vedono un fronte francese, nel senso che Bolloré è il secondo azionista di Mediobanca con l'8%. E poi Mediobanca è il primo azionista delle Generali col 13%, di cui Bodorè è una piccola quota, ma c'è Mustier alle Generali, il rapporto è vicino tra i due. Donè, scusatemi, alle Generali, Mustier è un incredito, scusatemi ogni tanto con i francesi. È pieno di francesi comunque. Con i francesi anch'io. Donè alle Generali. Ha un senso ragionare in uno scenario, diciamo, di consolidamento francese, includendo anche chi ho appena citato, quindi Mediobanca e Generali, o no? Diciamo che la Francia, gli attori francesi sono stati molto attivi sull'Italia negli ultimi tempi, e c'è stato anche, se vogliamo ricordare, un tentativo di Niel di inserirsi nella partita per Telecom, poi comunque Niel qualcosa ci ha guadagnato perché entrerà come quarto operatore mobile in Italia. C'è stata Pioneer, che è appena stata venduta. Ma tu vedi un asse, nel senso, perché la cosa interessante è sapere se Donè, Bolloré, adesso al di là del nome francese, e anche Niel, quindi possono formare un asse, diciamo, francese, oppure sono semplicemente francesi per caso, mettiamola così. Allora, c'è un francese atipico che è il Breton, nel senso di Bolloré, perché anche a casa sua è uno che va a guastare le uova nel paniere a parecchi. E comunque c'è un sistema paese, la Francia, che di solito si muove molto compatto, a differenza del sistema italiano, che forse non esiste neppure. No, anche secondo me non esiste. Allora, grazie Antonio Olivieri. Dopo il GR24 appunto cercheremo di capire, da un lato, la prospettiva sul fronte delle altre partecipazioni incrociate, a partire da quella di Telecom, e poi il ruolo del governo, se deve esserci un ruolo del governo italiano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti, continuiamo l'approfondimento su quanto sta capitando a Mediaset, allargandolo, come annunciavo, anche a scenari a breve, e mi riferisco a Telecom Italia, e quindi sono scenari industriali, e invece di carattere più finanziario, in maniera più prospettica, su quelle che sono le partecipazioni invece dello stesso Bolloré dentro Mediobanca, il secondo azionista all'8%. In Mediobanca siedono anche Berlusconi e Mediolanum, che assieme, diciamo, possono contare su un 4,3% di voti, e Mediobanca, ricordo, è il primo azionista delle Generali. Ora, le Generali hanno un francese alla guida, Donè, ma soprattutto agli azionisti francesi è riconducibile circa il 7% del Leone di Trieste, e Bolloré stesso detiene una piccola partecipazione. Poi, se uno volesse estendere questo, diciamo, anche al ruolo di AXA, che non c'entra nulla con Mediobanca e Generali, però è il secondo azionista del Monte dei Paschi di Siena, e si era parlato nel passato di un suo ruolo per un'ipotetica scalata su Generali. Ma andiamo con ordine. Vincent Bolloré, molti di voi ci scrivono che non lo conoscono, è un finanziere bretone, appunto, assolutamente, chiamiamolo così, non convenzionale nella stessa Francia. Ecco perché mi collego con il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussonè. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Restiamo un attimo sul profilo di Bolloré. Prima diceva Antonello Olivieri, difficilmente è difficile immaginare come si muoverà, perché è abituato a sparigliare le carte e avere un comportamento così eterodosso, non classico, non da salotto in cui si siede, e ricordavamo come l'obiettivo per ora possa essere anche quello di poi arrivare a una posizione di forza dentro Mediaset, per poi arrivare a trattare con la famiglia Berlusconi, quindi con la partecipazione di Fininvest. Poco fa è uscita un'agenzia in cui il ministro Calenda ha definito Ha detto: il governo italiano ha assoluto rispetto per le regole di mercato, tuttavia non sembra davvero che quello che potrebbe apparire come un tentativo del tutto inaspettato di scalata ostile a uno dei più grandi gruppi media italiani sia il modo più appropriato di procedere per rafforzare la propria presenza in Italia. Quindi scalata ostile inappropriata. Bolloré, Marco. Ma Bolloré è effettivamente un personaggio un po' a parte rispetto all'establishment francese. È un imprenditore che si è fatto da sé, si può dire, nel senso che è vero che esisteva in origine una piccola azienda familiare in Bretagna che produceva in origine carta e a suo tempo da giovanissimo, in realtà insieme al fratello, ha rilevato l'azienda dei genitori che era in cattive acque, e da lì ha costruito però un vero e proprio impero. Non ha fatto il percorso classico dei grandi patron francesi, non ha fatto le grandi scuole, non frequenta il mondo dei salotti parigini, è effettivamente un personaggio un po' atipico, è un imprenditore finanziere molto aggressivo. Lo si è visto più volte durante il suo lungo percorso, e basterebbe, devo dire, en passant, ricordare che due terzi circa del fatturato del gruppo di famiglia, del gruppo Bolloré della Financière de l'Odé, che è la holding di famiglia, è in Africa, nella gestione soprattutto dei porti, nella logistica e nei trasporti. Ora, è evidente a tutti che per riuscire a vincere le gare di concessione delle strutture portuali, stradali, ferroviarie in molti paesi africani, insomma, bisogna essere degli imprenditori sicuramente molto aggressivi. In Francia lo ha dimostrato più volte nella scalata al gruppo Havas di comunicazione e pubblicità, nel tentativo di scalata al gruppo Bouygues che non è riuscito, ma Bolloré ha comunque incassato una plusvalenza di circa 240 milioni, lo si è visto con la stessa Vivendi. Bolloré a suo tempo ha creato due piccole reti televisive in chiaro, Vivendi a un certo punto aveva bisogno di una presenza nella TV in chiaro che è da aggiungere alla storica presenza di Canal Plus nel Trentino, e Bolloré si è presentato: io ho queste due reti, in cambio voglio una piccola partecipazione in Vivendi, mi accontento di 5%, con l'obiettivo più o meno di restare lì, insomma. E nel giro di meno di un anno ha conquistato il gruppo e cacciato l'ex CEO, che peraltro era un caro amico di Bolloré. Ecco, come amica era la famiglia Berlusconi, perché non dimentichiamo che fino alla rottura di giugno i due dialogavano, cioè la famiglia Berlusconi e Bolloré dialogavano, c'era l'accordo per Premium, la cessione di Premium, poi tutto si rompe quando Bolloré fa saltare l'accordo, il preaccordo, e chiarisce che lui non è interessato a Premium che perde, lui è interessato ad andare direttamente sulla capogruppo, su Mediaset. Allora devo leggere due dichiarazioni di Silvio Berlusconi. La prima, da Vivendi è in corso un'operazione ostile, ma non ci ridimensioneranno. E poi sempre Silvio Berlusconi in una nota: non abbiamo alcuna intenzione di lasciare che qualcuno provi a ridimensionare il nostro ruolo di imprenditori, per questo abbiamo aumentato la nostra partecipazione e continueremo a farlo nei limiti consentiti dalle leggi. Vivendi ha avuto l'opportunità, con l'accordo strategico firmato nello scorso aprile, di avviare con Mediaset una collaborazione che si annunciava proficua per entrambi i gruppi, e invece così non è stato, aggiungo io. Marco, per concludere il fronte francese, insomma, non sfugge a nessuno che qui poi verrò con Laura Galvagni, che saluto, che ci ha appena raggiunto in studio. Non sfugge a nessuno che, allora, possono essere delle coincidenze così nominalistiche, però se io dico Donet alle generali, Mustier a Unicredit, che non c'entra in questa partita, per carità, però insomma, generali sì, perché come ricordavo prima, Mediobanca è il primo azionista e Bolloré dentro Mediobanca ha una partecipazione importante, e poi ce l'ha anche, c'è il nocciolo francese in generali. Ma insomma, questi francesismi, chiamiamoli così, possono in qualche modo far immaginare una strategia più complessa, perché non dimentichiamoci che Bolloré, adesso vi arrivo, ha anche il 24% e soprattutto il 24% di Telecom Italia, che è il primo fronte industriale, cioè tutti dicono l'obiettivo sarà quello di unire Telecom con Mediaset e far viaggiare i contenuti di una e arrivare a una sinergia nel futuro che già si vede negli Stati Uniti. Ma insomma, è solo un problema di francesismi, di nominalismi? Ma dunque, no, intanto concludevo sulla tua battuta precedente sulle amicizie. Ecco, Bolloré non ha amici in realtà quando deve fare del business. Gli affari innanzitutto, le amicizie dopo, ecco, quindi sul fatto le amicizie Berlusconi, insomma, questo non credo che sia un elemento caratterizzante per Bolloré. Ecco, sulla Francia, io non mescolerei tutto quanto, cioè, nel senso che allora ci si può chiedere perché, per esempio, l'Italia non è mai riuscita a creare un grande gruppo del lusso e le grandi società del lusso italiane sono in realtà di proprietà francese, o perché, non so, Edison di proprietà di EDF, cioè, vuol dire, no, che pure è un settore strategico come l'energia, cioè, no, non metterei insieme tutto quanto, cioè, a parte che AXA Buberle ha detto molto chiaramente che insomma Marco, io non volevo mettere, infatti non ho citato, ecco, BNP Paribas che ha BNL, non ho citato Crédit Agricole che ha Cariparma e Popolare Friuladia, non ho citato Lactalis che ha Parmalat, o appunto come tu ricordavi Louis Vuitton Moët che ha Bulgari, mi volevo concentrare solo sulla parte insomma Mediobanca, Generali e Unicredit sullo sfondo, teniamola proprio sullo sfondo. Ecco, io no, francamente io credo che il capitolo Mediobanca, il capitolo Unicredit, io credo che siano capitoli assolutamente scollegati a quello che sta accadendo in questo momento. Okay. In questo momento Bolloré ha un obiettivo chiaro, poi non bisogna neanche per forza sempre fare chissà quali dietrologie. Bolloré ha un obiettivo chiaro, che ha detto peraltro in modo molto esplicito. Cioè il suo obiettivo è creare un grande gruppo di produzione di contenuti centrato sud Europa, cioè quindi tra Francia, Spagna e Italia, che abbia quindi, come dire, le dimensioni corrette per poter competere con i grandi avversari internazionali, con i grandi concorrenti internazionali. Per fare questo Mediaset è un tassello digitale, è un tassello fondamentale di questa strategia. Quindi Bolloré l'ha detto, l'ha ripetuto, e poiché evidentemente non c'era la possibilità di raggiungere un accordo, ha deciso di andare all'attacco, dare un calcio nella porta. Ecco, ora si tratta di capire esattamente fin dove vuole andare, qual è esattamente la strategia, cioè se l'obiettivo è quello di spingere appunto Berlusconi all'accordo, a trattare, quello di forse far capire che è necessario un chiarimento tra Berlusconi, i figli, il manager, insomma, per capire esattamente anche loro, come dire, dove vogliono andare, forse anche quello di impedire che Mediaset, cioè che qualcun altro potesse mettere gli occhi su Mediaset, anche questa è quindi una presa di posizione forte per dire ci siamo noi. Se poi nulla di tutto questo funzionerà, eccetera, chissà, forse anche l'obiettivo dell'Europa ostile è sullo sfondo, ma per il momento non mi sembra di grande attualità. Poi c'è il discorso Telecom Italia, e anche questo Bolloré l'ha detto molto chiaramente, cioè da un lato il grande gruppo di produzione dei contenuti, dall'altra parte le grandi alleanze, meglio se capitalistiche, con i gruppi di Telecom che sono i distributori dei contenuti che produce il gruppo. Mi sembra insomma, ecco, però qui tu resti, ma va benissimo, infatti io non voglio aggiungere altri ingredienti a una vicenda complicata, però era importante capire, perché sai, per carità, le coincidenze esistono nella vita, però iniziano a essere un po' tante. Tu dici no, attenzione, per ora vediamo all'orizzonte solo l'obiettivo industriale, chiamiamolo così, e cioè arrivare a una convergenza tra me, lui vuole un gruppo multimediale, lo vuole, e Mediaset ha una partecipazione, come ricordava, una controllata importantissima in Spagna che produce ricavi, e quindi Mediaset non è solo Italia ma è anche Spagna, rientra quindi nell'obiettivo di Bolloré, ha le TV in chiaro, come ricordava ieri il nostro Andrea Biondi, elemento da non sottovalutare assolutamente, perché vuol dire penetrazione di mercato nel mercato in chiaro, e ha già il 24% di Telecom Italia. Vedo un flash d'agenzia, è appena stato comunicato che Vivendi nel frattempo è salita al 20%, Marco, per cui nel frattempo lui è arrivato dove aveva detto che voleva arrivare, al 20% di Mediaset. Berlusconi fuori dalla grazia di Dio, dal comunicato che abbiamo letto. La famiglia Serrocca è per ora al 38, vedremo se arriveranno nuove comunicazioni di mercato anche su Mediaset, però attenzione che Fininvest non possa dire più di tanto, perché sennò deve lanciare un'OPA, cioè deve lanciare un'offerta pubblica per comprarsi tutta Mediaset, e obiettivamente Bolloréa 2 miliardi di liquidità, Mediaset no. Grazie intanto Marco Mussanè, traffico. Focus Economia. E quindi Bolloréa al 20%, comunicazione di qualche istante fa di Mediaset. A questo punto i giochi sono fatti, però Laura Galvagni, buonasera, sì, di nuovo. Buonasera a voi. Perché Mediaset non può più salire, altrimenti scatta l'OPA. E lui ha già il 20%, vuol dire che è il secondo azionista, si siederà in consiglio e bisognerà rifare anche questo consiglio di amministrazione di Mediaset. Immagino certo proprio di sì, evidentemente. Quando hai il 20%, qualcuno dell'attuale hai diritto CDA. A una rappresentanza. Beh, insomma, hai un quinto del capitale, sei il secondo socio di gran lunga dopo Fininvest che ha il 38%. Dunque, dico subito che a me il tema della difesa. Abbiamo sempre detto che l'importante tema di Wimbledon non è la nazionalità, ma che valorizzi il gruppo che compra. E questo vale per qualunque gruppo privato. Ricordavo prima Louis Vuitton Moinessi, che ha preso Bulgari, l'Oro Piana, Lactalis, insomma Parmalat. Vale anche per Mediaset. Alcuni fanno notare, però esistono settori strategici. Chiudo subito. Sì, da sempre considerati l'energia, fonte di approvvigionamento, sicurezza nazionale e quant'altro. Il comparto aerospazio difesa, perché lì viaggiano informazioni riservate, delicatissime, e una volta anche le telecomunicazioni. Ora, io mi chiedo, ma lo dico in maniera non polemica, come faccio un paese che non ha battuto ciglio nel fatto che Telecom diventasse a controllo di Bolloréa, de fatto, perché 24%, questo vuol dire, o che Edison andasse completamente a controllo francese, come fa a sostenere che Mediaset è più strategica negli interessi nazionali rispetto a Telecom o a un gruppo energetico? Altra cosa, e concludo, è dire che il peso politico di Mediaset, visto che il suo proprietario è il leader dell'opposizione, non leader di Forza Italia, scusatemi, e di uno dei partiti dell'opposizione, è un peso politico diverso, e ragionare se a questo punto con un governo Gentiloni da una maggioranza molto risicata possano essere fatti accordi. Però qui siamo un po', non dico alla fantapolitica, ma alle ipotesi molto più politiche che finanziarie. Gentiloni sicuramente conosce la materia perché è stato ministro delle comunicazioni durante il governo Prodi. La frase del ministro Calenda è già abbastanza chiara: non piace l'atteggiamento di Vivendi, la scalata ostile è inappropriata. Però Laura Galvagni, Marco Mussanè diceva: attenzione, sostanzialmente Bolloréa vorrà fare l'operazione che ha già annunciato, unire reti, quindi Telecom con contenuti. Però se uno va a vedere come si è comportato in Vivendi, lo ricordava lo stesso Mussanè, è entrato con una piccola quota, poi se l'è mangiata dal dentro. In Telecom, se non ricordo male, disse vabbè io voglio entrare, mi interessa, e poi è arrivato ad essere l'azionista in maggioranza. In Mediobanca pure lì era entrato in punta di piedi e adesso all'8%. All'8%. È il secondo azionista di Mediobanca e in generale, per carità, una piccola partecipazione, non si è ancora mosso. Tutto questo non è che tranquillizzi moltissimo, no? Sì, infatti il tema fondamentalmente è questo. Lui nel 2008 aveva detto banalmente: Telecom è un titolo che mi piace, potrei comprarne qualche azione. Adesso è al 24,9%. Sempre nel 2008 era solo consigliere di Mediobanca, adesso è uno dei primi azionisti ed è di fatto ed ha un peso molto rilevante nel patto, perché vale più o meno il 25% del patto di Mediobanca. Può esprimere il vicepresidente. Come tu ben sai, Mediobanca è il primo azionista delle Generali. Allora, sicuramente Generali è un asset strategico per il paese, c'è la volontà di preserverla e quindi sicuramente magari si cercherà di creare un arrocco attorno alla compagnia. Ora, capire realmente se è più o meno in pericolo anche la, come dire, l'italianità delle Generali in questo momento è tendenzialmente presto. No, ma io sto solo citando il fatto che nella sua storia Bolloréa è sempre entrato in punta di piedi e si è sempre comprato e i gruppi dove entrava. Cioè, nel senso, questo è dato di fatto, non è un giudizio su Bolloréa. No. Ha i soldi, mi chiedono. Certo che c'ha 2 miliardi di liquidità, hai voglia. E quindi per ora mi sembra che sullo sfondo ci sono solo Telecom, Mediaset, perché è chiaro che se hai comprato il 20% di Mediaset e l'hai pagato, perché in parte l'hai pagato non ai prezzi di ieri, ma in parte l'hai pagato, non vai lì per diversificare l'investimento, vai lì per, per pesare nel consiglio di amministrazione. La famiglia Berlusconi, certo che è in questo momento furiosa, ma dovrà arrivare, a mio avviso, quando tu hai un azionista del genere, deve arrivare anche un accordo di qualche forma. O ammettiamo, ma non capisco dove troverebbe i soldi, che possa lanciare un'offerta su tutta media, se mi sembra molto, molto, molto improbabile. Detto questo, sulle generali sappiamo che insomma, il primo azionista di Mediobanca, che è il primo azionista dei generali, non è però Bolloré, ecco perché si apre anche un altro francese, un altro fronte. No, il primo azionista di Mediobanca, cioè il primo azionista delle generali è Mediobanca. Il primo azionista di Mediobanca, dicevo. Sì, perché è Bolloré, Unicredit. È appunto Bolloré il secondo con l'8%, è Unicredit dove all'8,56. C'è un francese. È solo una coincidenza, ci mancherebbe, si chiama Moustier, quello del regionale si chiama Donet e poi c'è Bolloré. Così c'è da dire peraltro in questa fase che Unicredit è pure advisor di Mediaset nella partita Vivendi, quindi come dire, forse in questo momento probabilmente i suoi interessi sono più spostati verso l'Italia che verso la Francia. Questo è vero. E quindi in qualche modo anche all'interno del patto Mediobanca evidentemente potrebbe far pesare questo aspetto. Detto questo, appunto come si diceva prima, è tutta una questione di prevenire evidentemente, di provare a cercare di difendere e mantenere sostanzialmente. Però se uno dovesse seguire il tuo ragionamento potrebbe dire che ormai la partita Mediaset Vivendi si è non si è chiusa, ma quello che doveva essere fatto è stato fatto, cioè a questo punto se lo dovranno vedere Berlusconi e Bolloré. Sì, Berlusconi non può più salire, Bolloré al 20% o uno dei due lancia un'OPA che non mi sembra in realtà in questo momento opportuna né l'uno né per l'altro, perché Bolloré può lanciare l'OPA sull'80% del capitale, ma se Berlusconi non gli dà le sue azioni non va da nessuna parte. D'altra parte, se Berlusconi decide di fare un'OPA su Mediaset, ok, porta a casa quel che porta a casa, rafforza il controllo, ma poi in realtà si tiene sempre dentro un socio che non è in accordo con lui e che ha un altro progetto, quindi sembra quasi, come dire, l'unica soluzione sembra andare a sedersi a un tavolo. L'unica soluzione è che facciano la pace, diciamo, sì. visto la situazione di stallo. Però, per concludere, se io dovessi ragionare in chiave strategica, se il governo volesse anche ragionare in chiave strategica, o gli azionisti, o il capitalismo italiano, qualcuno mi scrive se ci fosse stato Cuccia non sarebbe mai arrivato Bolloré. È vero, ma parliamo di un altro mondo, di un'altra epoca in cui si facevano i patti di sindacato, le partecipazioni incrociate. Mediobanca faceva anche un altro Mediobanca mestiere. Mediobanca faceva un altro mestiere e le azioni, come diceva Cuccia, non si contavano ma si pesavano. Detto questo, io mi sposterei nell'orizzonte proprio sul fronte Mediobanca e sul fronte generali. Cioè, in questo momento se uno deve creare, chiamiamolo così, un argine, deve andare su generali, ho capito male? Sì, questa è la percezione che ha più o meno il mercato di una possibile operazione ostile da parte dei francesi, ostile o anche concordata da parte dei francesi su generali, se ne parla ormai d'agosto. Lo stesso Renzi aveva lanciato una sorta di allarme all'epoca ad agosto, dicendo attenzione ai francesi sulle generali. AXA capitalizza più del doppio di generali, capitalizza 58 miliardi, generali 21. Se decidono di fare un'operazione volendo la possono fare senza problemi, si tratta di capire se è un atto strategico e come comportarsi. Secondo me di conseguenza il tema è più anche quanto i francesi, purtroppo lo sanno fare, o per fortuna per loro lo sanno fare, riescono a fare il sistema, perché apparentemente sono soggetti separati che però non sarebbe la prima loro volta loro sanno fare il sistema e riescono a fare operazioni di questo tipo. Grazie anche Laura Galvagni, veramente tutto per grazie questa puntata di Focus Economia, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.